Cari cristiani, più di una volta io vi ho detto, vi do il mio latte, cioè come una madre nutre i figli, un sacerdote nutre la sua gente, dopo essersi alimentato lui. Quello che vi do non lo imparo sui libri, non lo improvviso mai. Quello che vi do è il cibo che io ho mangiato e che lo Spirito Santo mi suggerisce perché possa diventare un insegnamento per voi. E l'insegnamento che questa mattina vi do è questo: dobbiamo imparare a pregare la messa. Voi mi direte, ma certo, cosa facciamo d'altro se non pregare a messa? Oh, non è detto, non è detto. Si può anche andare a messa e non pregare o pregare male. Si può andare a messa e succhiare tutta la linfa che c'è dentro nella liturgia, non solo nella parola di Dio, ma anche nelle orazioni. Io stamattina prenderei la prima orazione, se volete seguirla sul messalino. Ve la leggo e poi ve la commento. Concedi, o Dio misericordioso, che in questi giorni di conversione, riconoscendo i nostri peccati e dimenticando ogni torto subito, accorriamo con fiducia al tuo perdono. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, questa io l'ho già recitata, no? Io credo che dopo che ve l'avrò spiegata comprenderete cosa vuol dire pregare le preghiere, pregare la messa, perché non offendetevi, ma forse non l'avete seguita come quando l'ho pregata io, come io mi ero preparato. Anzitutto diciamo concedi. È un verbo all'imperativo. Pensate quale confidenza il Signore ci permette di rivolgerci al Signore con l'imperativo, concedi. E a chi ci rivolgiamo? O Dio misericordioso. Io nel mio cuore, tutte le volte che incontro Dio, lo cambio. Non mi permetto di farlo di fronte a voi, perché io devo restare fedele alla parola della liturgia, ma per me questo Dio è il Padre, è il Padre. E mi sembra quasi che personificandolo così e immaginandomelo come Padre ci sia più confidenza che non rispetto a Dio. O Padre, o Dio misericordioso, sempre bella questa parola, misericordare, dare il cuore al misero, misericordia. È Dio, Padre, che dà il cuore al misero, che in questi giorni di conversione, non dimentichiamo che siamo in Quaresima, niente nel mondo ce lo ricorda, niente, niente. O ce lo ricordiamo noi, o lo viviamo noi, e in casa nostra anche portiamo questo valore, la Quaresima, se no diventerà sempre più scolorita. Riconoscendo i nostri peccati e dimenticando ogni torto subito, riconoscendo i nostri peccati, io lo chiedo allo Spirito Santo, perché troppe volte sono distratto, troppe volte mi manca la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la scienza per capire lo stato di salute della mia anima. O Spirito Santo, aiutami a riconoscere i miei peccati, anche quelli di omissione. E allora suggerisco anche a voi, cari cristiani, una preparazione diffusa alla confessione. Troppe volte la confessione è buttata lì. Quante volte mi capita gente che entra in chiesa, siccome io sono qui abitualmente in chiesa, ho trovato qui il prete, già che c'è qui mi confesso. Va bene, va benissimo. Ma non dovrebbe essere il nostro stile abituale questo. Dovremmo, anche per questa prossima Pasqua, prepararci in maniera diffusa, in maniera ampia, non scrupolosa, ma in maniera diffusa alla confessione, riandando a un periodo più ampio, addirittura alla nostra vita, e dimenticando ogni torto subito. E qui mi veniva in mente Gesù. Gesù, le parabole che ha detto sul perdono dei due servi debitori, oppure del padre misericordioso verso il figlio prodigo, oppure il suo stesso atteggiamento quando è arrestato nell'orto degli ulivi, oppure le sue parole sulla croce: Padre, perdona loro. Perché pensare al perdono mi viene in mente Gesù e dire: oh Gesù, insegnami a perdonare. Dopo che lo Spirito mi ha fatto capire tutti i miei peccati, non troverò faticoso perdonare i peccati degli altri. E così accorriamo con fiducia al tuo perdono, la confessione, dicevo. Bene, allora, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te, Padre, nell'unità dello Spirito Santo, vedete che ogni preghiera nella Santa Messa è rivolta alla Trinità. Per mezzo di Gesù, nello Spirito Santo, ci rivolgiamo al Padre. Ma io ho scoperto anche in questa preghiera che c'è già dentro la Trinità, non solo nella conclusione, ma anche in questo Spirito che mi aiuta a riconoscere i miei peccati, in questo Gesù che mi aiuta a dimenticare ogni torto subito. Cari amici, dobbiamo, chiediamo al Padre Celeste che ci dia una fede trinitaria, perché il nostro Dio è un Dio Trinità.